Europa 24. La Commissione europea ha apprezzato i passaggi sui rapporti con l'Unione europea del discorso alla Camera del neo premier Matteo Renzi durante il dibattito di ieri per la fiducia, anche nei suoi accenti critici sul ruolo dell'Italia rispetto alla linea di Bruxelles. Abbiamo sentito nel discorso del nuovo presidente del Consiglio, ha detto a Bruxelles il portavoce della Commissione Olivier Bailly, una forte ambizione per l'Europa e per l'Italia in Europa. Non possiamo sperare di meglio. Un leader che vuol far avanzare l'Europa e l'Italia in Europa, e ben vengano, ha concluso il portavoce, altri approcci e nuove idee per far avanzare l'Europa. Ed ora una decisione dell'antitrust europeo. Si riducono i costi extra per chi effettua pagamenti con le carte di credito Visa. Sono stati resi legalmente vincolanti gli impegni proposti da Visa Europe sul taglio delle commissioni interbancarie, che scenderanno allo 0,3% del valore della transazione, con una riduzione dei costi dal 40% al 60%. La Commissione europea aveva aperto il caso nel luglio 2012. Ora prosegue il procedimento per quanto riguarda le commissioni interbancarie applicate sulle transazioni internazionali fuori dal territorio europeo. Disco verde del Parlamento europeo alla direttiva sul congelamento e il sequestro dei beni di provenienza illecita. I beni potranno essere confiscati a seguito di una condanna penale definitiva. Oggi solo l'1% dei beni viene confiscato. Un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata, ma ci sono punti su cui si poteva fare di più, dice Rita Borsellino, eurodeputato di Socialisti e Democratici. Sentiamola al microfono di Cristina Carpinelli. Uno di questi è per esempio la confisca in assenza di condanna in caso di morte dell'imputato, del mafioso, mentre è stata approvata quella in caso di malattia o in caso di contumacia. Se un mafioso che è sotto processo muore prima della sentenza, anche se si stava per arrivare a una conclusione di condanna, improvvisamente il patrimonio ridiventa lecito, ridiventa pulito e può essere ereditato, può essere passato agli eredi. Non c'è questa misura che invece in altri paesi esiste in Italia sicuramente. E poi importante l'uso sociale dei beni confiscati, e però anche lì, cioè, non è una norma, non è che è obbligatorio fare così per i paesi che confiscano i beni della criminalità organizzata. È un consiglio che viene dato, si può utilizzarli a fini sociali. Anche questo, ripeto, è ha lasciato un po' di amaro in bocca, perché era una misura importante, perché era qualcosa che già in altri paesi come l'Italia, come l'Irlanda è già effettivo ed efficace. La Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che è anticostituzionale la soglia di sbarramento alle europee per i partiti tedeschi, che in Germania è al 3%. La soglia viola il principio generale dell'uguaglianza e delle pari opportunità alle urne. Dopo questa decisione, alle prossime elezioni europee di maggio, i partiti tedeschi non avranno più alcuna soglia di sbarramento. Ad impugnare la normativa sono stati piccoli partiti, fra cui quello di estrema destra dei Pirati. Via libera definitivo da parte dell'Europarlamento alla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili. L'Europarlamento ha approvato le norme che fissano a livello europeo la riduzione delle emissioni di CO2 a 95 grammi al chilometro entro il 2020 per le nuove auto. Il testo, in attesa di ricevere l'ok formale dal Consiglio per entrare in vigore, è stato approvato a larghissima maggioranza, con 499 voti a favore, 107 contrari e 9 astensioni. Ridotta al solo 2020 la fase di adattamento, mentre per il periodo 2020-2022 ci sarà un sistema di supercrediti, in base a cui le vetture pulite conteranno sino al doppio di quelle più inquinanti. Un accordo ambizioso, lo ha definito così la commissaria europea al clima. Entreranno poi in vigore al più presto i nuovi test, con una procedura più realistica per valutare le emissioni auto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.